cominciato proprio con la radio e il doppiaggio. Doppiavo i film porno all'inizio, 35 anni fa. Era... Ti piace? Ti piace? Dimmelo che ti piace. No, era così, ma una cosa... La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Non è intuire, non è intuire. C'ho questo contatto con il mio alieno O'Nilson, come avete voi specificato prima, e mi dà questo, diciamo, come analizzare le... No, no, è un contatto che sento la voce. Non siamo soli, non siamo soli. Io inizierei così, Parenzo. Il prefetto Gabrielli, il prefetto di Roma Gabrielli, una persona che molti di voi magari non conoscono, ma una persona sicuramente importante in questo momento nella capitale, potremmo dire uno di noi, Gabrielli uno di noi, perché almeno la pensa come me, vuole le case chiuse danno sicurezza sanitaria e tasse. Gabrielli, Gabrielli. Nelle tanto vituperate case chiuse avevano due elementi di grande come dire, sicurezza, una quella sanitaria e l'altro che i tenutari erano in qualche modo tenuti, è il caso di dirlo, a pagare le tasse. Uno di noi, Gabrielli, uno di noi. No, ma io sono d'accordo con te. Dopodiché, chi è il sindaco a Roma, però? Marino, cioè, che... Marino, zio Marino. Cioè, ecco, in realtà è in tandem con zio Gabrielli, ecco, che avete sentito prima. Il in prefetto, faccia il prefetto, il parfait. Faccia il prefetto. Ma quando mai un prefetto comincia a parlare di un programma politico, case chiuse? Vabbè, il prefetto è il prefetto, dai, il prefetto Gabrielli è anche il commissario del, è anche il commissario quello che si occuperà, vabbè, del giubileo. È il chissà, vero sindaco di Roma. Chissà che ne pensa la Chiesa, la Chiesa. Oh, quando io vedo in un programma televisivo riaprire un Casa Monica, in qualche modo mi scaldo, mi entusiasmo. Visto, vorrei sempre i Casa Monica, io, sempre, sempre. Anche quando, vedrai anche al calcio. Anche quando minacciano, anche quando minacciano i giornalisti, sì, per carità, è una cosa gravissima, tutti noi ci indigniamo. Sì, vabbè, è brutto, certo, è brutto, non c'è dubbio. Però poi alla fine, se vanno in televisione e ci mettono la faccia, che minaccia è? Cioè, di solito quelli che minacciano... No, perché sono... Hanno fatto anche un funerale, perché pensano di passarla liscia, capito? Vabbè, pensano di passarla liscia, di essere loro che comandano Roma. Comunque io mi entusiasmo. Vorrei Casa Monica ovunque. Bisognerebbe fare una serie televisiva, i Casa Monica. Come i Soprano, sì, i Casa Monica, stupendo, personaggi meravigliosi. Questo qua si chiama Enrico Casa Monica. Sì. A un certo punto dice a Del Debbio: prima di parlare di noi, si sciacqui la bocca. Sì. Riguardi Casa Monica, non vedo tutti questi morti che hanno fatto questi Casa Monica. E non vedi questi mezzi sorrisi che facciamo noi verso quel servizio che già abbiamo visto non so quante volte. Perciò, prima di parlare di Casa Monica, no, però usura, truffe, traffico di sostanze stupefacenti. Chi è che ce l'ha? E sono state, diciamo, tutti. Capi d'accusa, come tutti. I Casa Monica anche italiani, no? Giusto? Cioè, non è perché anche altri italiani sono coinvolti. Sì, giustifica. Giustifica il fatto che... No, questi dicono che noi non abbiamo fatto niente. Io non capisco perché attaccano Rosy Bindi. Adesso, francamente, in questo caso devo difendere Rosy Bindi. Esatto. Mi pesa un po', devo dire, non mi pesa immagino, un po'. Però mi pesa senso, un po'. Dai, però, ogni tanto, ragazzi, eh? Quando è giusto, è giusto. Quando è giusto, è giusto. La persona non mi sta particolarmente simpatica. Vabbè. Però chi se ne frega, questo non conta niente. Quando uno dice una cosa giusta, bisogna riconoscere che dice una cosa giusta. Cioè. Soprattutto ha detto una cosa ovvia. Cioè, il che si potrebbe discutere sul fatto che il presidente della commissione antimafia, perché credo sia ancora presidente di un'inutile commissione, che è la commissione antimafia, no? Certo. Che andrebbe cancellata. No, andrebbe cancellata subito, cancellare subito la commissione antimafia con tutti i relativi, come dire, no, relativi soldi componenti, che danno, dice. I componenti e anche le prebende che danno. Allora, la signora Rosy Bindi che ha detto, in realtà ha detto un'ovvietà, ha detto che la camorra è una roba costitutiva a Napoli. non ha pronunciato la parola DNA. Però certo, quando tu dici che la camorra fa parte di Napoli, beh, è nel parte? Carattere costitutivo di Napoli. Sì, no, certo. È nata a Osta. No, vuole dire sostanzialmente che la camorra impregna. Ha detto un'ovvietà. La camorra impregna Napoli. Fa parte della. Ha detto qualcosa in più, però, della costituzione di Napoli, diciamo. La camorra è un dato costitutivo della città di Napoli, meglio potremmo dire le camorre, come le mafie sono un dato costitutivo della società e della storia italiana. E non rinnego la mia affermazione, forse la posso spiegare. Ma ha ragione, ma ha detto una tale ovvietà che qualcuno dice sia scandalizzato il sindaco e altre persone. Beh, ma Napoli non ha nel DNA la camorra, no. Non ha nelle sue viscere la camorra, la camorra è estranea alla napoletanità. E no, amici miei, fa parte del carattere costitutivo di Napoli. È così, c'è poco da fare, la camorra è Napoli. C'è poco da fare, poi magari ve ne libererete, ce ne libereremo, perché non è che sta solo a Napoli la camorra, ramificazioni in tutta Italia, no, camorra. Però è così, fa parte del carattere costitutivo di Napoli. Poi dice, no, mai detto nel DNA. Sì, vabbè, adesso Bindi, è chiaro che uno si deve difendere poi, però quello ha detto sostanzialmente che fa parte, è nel sangue di Napoli. Non accetto la confusione tra la storia, la sociologia e la biologia, come ha fatto un'autorevole testata di questa città che ha titolato La camorra nel DNA di Napoli. Non ho detto questo, e se avessi detto questo avrei sbagliato. È praticamente uguale, dai. Bindi, ti dico che è praticamente uguale. Non è che la camorra, non è che i napoletani nascono con la camorra nel sangue. Dire, no, certo. Dire nel DNA è che fa parte ormai di una storia quasi secolare. Ma dove è nata la camorra? Perché sennò ci gira. Dov'è che è nata? È inutile adesso chiamerà la gente dicendo voi siete contro Napoli. Ma che contro Napoli? Non sono napoletani straordinari. Oh, c'è di anche nuovo, la camorra. Di nuovo Renzi il volo di Stato. Anche qui dice naturale. Se fosse stato il calcio, nessuna polemica. Beh, mettetemi qualsiasi cosa, tanto è uguale. No? Giustificazione di Renzi per il volo negli States a vedere la partita di tennis. Addirittura una delle due, Roberta Vinci, toglie il sogno del grande slam alla grandissima Serena Williams. Io credo che fosse una cosa talmente grande e straordinaria che la vittoria di Flavia Pennetta, cioè che valeva la pena Vinci, non andare alla Fiera del Levante, la Fiera di Bari del Levante c'è tutti gli anni. Ci torneremo il prossimo anno, tornerò a Bari nelle prossime settimane. Ma la gioia di poter condividere un grande successo credo che sia molto molto bella. Oh, dice Renzi che se fosse stato il calcio non ci sarebbe stata nessuna polemica. Sì, è vero, però attenzione, sì, però è qui la polemica. La polemica è proprio questa. Cioè il tennis è uno sport individuale, è uno sport in cui un momento rappresenta la nazione, però. Ma chi l'ha detto? Ma quando quelle lì rappresenta la Pennetta, rappresenta la Pennetta, la Vinci rappresenta la Vinci. Questa è la differenza. Quando c'è la nazionale italiana, che hanno vinto l'importante torneo. Io ti dico la verità, se ci fosse stata la Coppa Davis, la finale di Coppa Davis, e Renzi andava a vedere la finale di Coppa Davis femminile o maschile, si chiama in un altro modo, quella femminile, Federation Cup se non sbaglio, se andava a vedere la finale di Coppa Davis nessuno avrebbe detto nulla, nessuno avrebbe detto però nulla. È una polemica sterile, non è una polemica sterile. 200.000 euro li cacci fuori, ma lui. No, è quelli che si è portato li dietro, cacci fuori, che altro. No, che c'entra, quello sarebbe, il prezzo sarebbe stato lo stesso, 200.000 euro, quasi 200.000 euro li cacci fuori lui, non noi, per andare a vedere la finale di due italiane. Capo che lei. Si presentano a titolo individuale, a titolo individuale, non è che c'è scritto certamente Italia, ma ognuno rappresenta se stesso, non è uno sport collettivo, ma non è uno sport di squadra. Ma non c'entra, ma basta con questa cazzata dell'orgoglio italiano. No, orgoglio italiano. Ma che orgoglio italiano? Ma chi se ne frega? Gli americani che se l'ha solo presa nel saccoccia, su, ma e tutti gli altri. Va, gli americani e tutti gli altri. 200.000, quasi 200.000, paghi lui. Credo che la polemica sul volo di Stato, è naturale che un Presidente del Consiglio, chiunque esso sia, si muova con i voli di Stato. Lo considero una cosa assolutamente scontata. Da noi la polemica è perché dall'idea di essere un costo. Io invito tutti a guardare i costi di Palazzo Chigi, prima e dopo la cura. Invito tutti a guardare i soldi del bilancio dello Stato. No, no, ma riguardiamo, per carità. Però una volta Renzi faceva anche dei piccoli gesti. Alcune cose, alcune piccole cose contano. Anche rinunciare ad andare a New York e risparmiare così 200.000 euro, adesso leggo di auto blu ricomprate, una vicenda complessa, non lo so. Ci spieghi se è vero invece che è pronta la commessa per questo superaereo che non sembra servire alla causa questa italiana. Non serve niente. Non sembra servire. Piccoli gesti, anche se 200.000, 300.000 servono. Tu che fai quando vai a dormire? Ti sogni tra... La Zanzara. C'è una foresta che cresce, che non fa rumore. Voi siete quattro alberi che cadono e presto non ci sarete neanche voi. Iniziamo col centralino, 800 24 00 24. Alessandro Udine, vai Alessandro. Buonasera Struzzani, buonasera. Dimmi, dai, veloce, vai. Senta, niente, io volevo polemizzare con tutti e due, ma come fate a essere favorevoli alla riapertura delle case chiuse? Come mai invece? Mi meraviglio di lei, Parenzo, col quale sono d'accordo quasi sempre. Ma io infatti dico che quello che lei... serve per evitare lo sfruttamento delle ragazze, ovviamente. Ecco, no? Per evitare, ci sono lo controlli, ci sono. Allora, caro Parenzo, mi dica che cosa ne facciamo di due reati: quello di favoreggiamento della prostituzione e quello di sfruttamento della prostituzione. Ma come, Alessandro, come in quel caso sparirebbero quei reati? Come li conciliamo con la riapertura delle case chiuse? Ma non c'è solamente, poi... non ci sono solamente le case chiuse, c'è chi può pagare le tasse aprendo una ditta individuale, cioè la ditta individuale si può chiamare Zoccola SPA, Zoccola. Mi rilasciano una ricevuta fiscale. Assolutamente. Controlli sanitari, ditta individuale, si può ricevere in casa, si può aprire una cooperativa, le prostitute insieme possono aprire una cooperativa. Parli con qualunque specialista di malattie venere e le dirà che i casini erano il serbatoio di tutte le malattie venere. Sì, le segnalo Alessandro che non c'erano i preservativi all'epoca, non c'erano i condoms all'epoca. Come non c'erano? Se li usava Giacomo Casanova. Ma no, ma non c'erano, non si usavano così diffusi. Questo Alessandro, sì, comunque lei mi sembra uno specialista, cioè lei andava nei casini, non credo, perché non è così anziano. No, non avevo l'età, perché nel 58 avevo 13 anni. Ecco, insomma. Ma lei è andato qualche volta a prostitute, no? Beh, no, mi sembra. Sì, caro. 40 anni fa l'ultima volta. 40 anni fa, scusi, quanti anni ha lei? 70 anni? 70 anni. Lei ha 30 anni e è andata a prostitute. Ci sono andato una volta. Ma come? Dove l'ha raccattata? Per telefono? A Roma, avevo perso un treno, non sapevo come perdere 4 ore, sono andato a prostitute, vergognosamente, lo confesso. Ma dove esattamente? Andare in un bar a prendere un caffè? No. Ma dove? Per strada? No, in un appartamento con un annuncio sul Messaggero di Roma. Beh, è un classico, direi. Non sapevo che cazzo fare, sono andato lì, insomma. Beh, spettacole. Scusi Alessandro, brutta esperienza. Ah, nel senso che alla fine è andata male. Si è pentito, vedi? È andata male. Ma è andata male, sì, perché quando si paga, insomma, con il divertimento, in che cosa può consistere? Non si è arrapato. Fermi tutti però. Proprio no. Cioè, non ha funzionato. Fermi tutti. Che succede, Parenzo? Fermi. Che succede? 18:51. Che succede? Oggi Cruciani compie 50 anni. No, veramente sono 49, non rompere i coglioni. Sei entrato del 50esimo anno. No, sono 49. No, sì, è il 50esimo anno. Tantissimi auguri allora. Vedi? Va bene, adesso lasciamo. Gli regali una gitarella con qualche signorina di Ma non ne fa qui, più allora. Da 30 anni. Facciamo Alessandro. Un bonus. Ma è interessante sapere, cioè quando è arrivato lì praticamente le è rimasto come moscio. Come hai festeggiato il compleanno? Mi sono cadute le braccia, Cruciani. Cioè lei è rimasto così, lei è rimasto fermo. Immobile. Sì, mi sono cadute le braccia, anche qualche cos'altro che è meglio per radio non nominare. No, è sempre meglio nominare tutto, è sempre meglio fare grande chiarezza. Lei praticamente ci sta dicendo che siccome alla fine non si è arrapato molto e non è riuscito, ha fatto cilecca, ha fatto flop. Ma non ho neanche cominciato veramente. Allora che c'è andato a fare, scusi, ha pagato? Ho pagato e me ne sono andato, insomma. Ha pagato e se n'è andato. Adesso è contro la riapertura delle case chiuse, ma ti rendi conto o no? No, ma non per questo. Comunque il prefetto di Roma, Gabrielli, mi ha dato una grande gioia. È uno di noi, case chiuse, sicurezza sanitaria e tasse. Ignazio da Napoli, grazie Alessandro, grazie. Pronto, grande questa cosa notifica. Vai, allora, Ignazio, Napoli, al Napoli noi siamo favorevoli alla riapertura delle case chiuse. Ma io non lo so se ci sono altre cose. Ma non chiamo per questo, chiamo per il fatto della Bindi che ha detto che la camorra è un elemento costitutivo di Napoli. Non è così. Ma come non, cioè, è così, Ignazio? No, su, è un elemento, dai, costitutivo. Se dice queste cose, la Bindi dovrebbe dire no, dovrebbe fare nome e cognome a Napoli dei terminali politici e sindacali che sulla camorra ci mangiano. Ma quello è un altro discorso, ma quello è un altro discorso della politica. Quindi nei quartieri di Napoli c'è la realtà sociale delle associazioni, no, Ignazio, che combattono la camorra. Vabbè, ma quello è un altro discorso. Ma mica ha detto, che non c'è gente che combatte la camorra. Ha detto che è un dato costitutivo di Napoli. Adesso non posso sopportare le telefonate dei napoletani contro questa cosa, perché non esiste. Non esiste, nessuno ha accusato Napoli, napoletani e basta. Su, la camorra c'è a Napoli, sì. Dove? E allora basta, su, è come se dicessero in Veneto c'è la polenta. Su, impregna Napoli la camorra, sì. Ci sono le forze, la polizia, carabinieri che fanno il loro compito. Ma quello che c'entra? Certo, ma non vuol dire niente, ovvio. Ci vuole il lavoro e l'impegno sociale e politico della classe. Antonio da Siracusa, io non capisco perché lei ce l'ha con la Bindi, scusi, perché ce l'ha con la Bindi? Ha insultato Napoli, che ha fatto? Scusa, volevo dirti un'ultima cosa. Il fatto della prostituzione a Napoli, va bene? Cioè, è bene che si aprono le case chiuse, perché sarebbe un tentare a livello sociale di togliere dalla strada decine e decine e decine di donne che purtroppo per il lavoro che fanno sono danno fastidio. Ciao Claudio, Luca, vai. Sì, salve. Dunque, io telefono riguardo a quello che avrebbe detto la Boldrini, sì, su investire sugli immigrati. Sì, sì. No, niente. Niente, tante che, cose di niente che o parlano. Salvini. Vabbè, allora andiamo a Napoli, sempre Napoli, dai, dai, forza, Pippo, vai. Dimmi, Pippo. Allora, Cruciani, dimmi. Buonasera. Vai, a te, dimmi. A Parenzo. Allora, no, mi riallaccio al discorso, salve, che diceva il signore napoletano di prima. Ma come si fa, diciamo, i napoletani onesti, come fanno a non offendersi da quello che dite? Io faccio questa domanda. Ma di che cosa stiamo parlando? Ragazzi, ma di che stiamo parlando? I napoletani, allora, di quello che ne parlate spesso, della camorra. Cioè generalizzare, perché ma non è questione di generalizzare, la Bindi ha detto una cosa sacrosanta, anche un'obietà, se vogliamo, e voi calcate e ci giocate, no? Calcate e ci giocate, fate, la camorra, no? È nel DNA, o non ha detto DNA, è nella Costituzione pure, di Napoli apertamente, l'avete detto DNA. Ma allora anche Roma ma no, che nel DNA, merda, non è per dire, ma allora dire nel DNA Roma o Milano che è piena di merda, sono tutti una merda, no? Diciamo, ma non è questo, allora, no, così. Allora la camorra è ormai dentro, impregna, no, questo vuole dire la Bindi. Mi sei simpaticissimo, ma io non sto dicendo io ti seguo da un po', però ascoltami un attimo. Allora, in effetti dire queste cose è come è offendere la brava gente. Ma non è vero, ma quale offendere la brava gente? Ma quando si dice nel DNA, ma non ha pronunciato la parte che non ha detto DNA. Ma che significa DNA? Nell'atto l'hai calcato tu hai calcato, poi hai detto che ti era anche antipatica la Bindi. E ho capito, quando dice una cosa giusta, quando dice una cosa giusta, dice una cosa giusta. Ma dai ancora più valore alle Vabbè, ti sei sentito offeso? Ti sei sentito offeso? Ma di che cosa? Mi sono sentito offeso, sì, perché io la mattina scendo a lavorare e torno la sera. E tu non fai parte della camorra. Quando si dicono queste cose si dà la merda, si chiama merda a tutti i napoletani. Ma poi non è vero, non è così. Dire che non è così. No, pure, no, ma non, non è così. Fermi tutti. Non è così. In giro, dai. Non è così. Non prenderci in giro. Fermi tutti, giornale radio, giornale radio. Ormai è tutto degradato, tutto degradato ormai. Con Radio 24 è tutta un'altra domenica, con grandi conferme e nuovi acquisti, con una nazionale di grandi nomi. Pino Insegno, Maria Latella, Rosita Celentano e Angelo Vaira, Pierluigi Pardo, Filippo Astone, assieme ai conduttori più noti del palinsesto della radio, Giovanni Minoli, Gianluca Nicoletti, Enrico Ruggeri, Gegè Telesforo, Alessio Maurizi e tanti altri. Una domenica per pensare, riflettere, emozionarsi e divertirsi con le storie, le voci più belle del cinema, la musica d'autore, la grande attualità e il racconto della storia, la vita delle donne e uno speciale processo al calcio che non può mancare nella domenica degli italiani. Su Radio 24 la passione si sente e la domenica l'emozione si vive. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presenta La Zanzara. Devo spegnere un po' l'entusiasmo perché mi segnalano che il prefetto Gabrielli di Roma ha detto sì che le case chiuse vanno riaperte perché le case chiuse significa sicurezza sanitaria, tasse eccetera eccetera, ma è anche più o meno d'accordo sull'idea di Marino, folle, assurda, di multare i clienti delle prostitute. Bene. E multare le prostitute stesse che sono per strada. Follia, siamo in linea. Follia, siamo in linea. No, tua linea, la tua linea, siamo in linea, quella sì, bigotta retrograda. No, quella io bigotta retrograda. Te l'ho detto, per aprire le case chiuse con i controlli, ma però per punire, ma punire lo clienti, sfruttamento che... della tratta della ma, carne. Ma che c'entra? Non c'entra punire nulla. Lo sfruttamento della tratta della carne. Mamma mia, ma che benissimo. Non c'entra niente. Siamo in linea col prefetto. Non c'entra niente. Siamo in linea, siamo in linea. Cittadino! Sente. Cittadino, presente, abile, arruolato. Cittadino Giarrusso, sono qua con voi. Lei ha conoscenza del nuovo testo dell'inno del Movimento 5 Stelle? Bellissimo. Bisogna impararlo. No, io stavo ascoltando la proposta di riaprire i bordelli a Roma. Beh, mi pare una cosa logica o no? E certo, chiudono le sedi del PD e quindi le devono riaprire da qualche parte, no? No, scusi, in che senso, scusi? In che senso? E sono come con Expo, tessera PD, sconto, casa chiusa. Ma i quelli del PD sono prostitute. Tutto cooperative sociali. Ma perché? Rosse, nere. Ma perché? Io non ho capito bene, perché le sedi del PD vanno chiuse, secondo no, lei? No, come dico, le avevano commissariate perché hanno delle infiltrazioni. Sì. È successo che in qualche sede del PD romano c'era meglio... veramente qualche PD. Beh, sì, iscritto. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. E allora ce l'hanno trovato, come? Non ci sono quelli di Buzzi e Carminati soltanto, come dice, caccia il piddino prima che si rende conto di dov'è, e quindi li hanno commissariate, no? Comunque meglio, lei dice meglio le case chiuse a questo punto, no? No, no, non dico meglio le case chiuse, dico che evidentemente si stanno riconvertendo, no? Bisogna, in bordelli, cambiare verso, no? Ma lei non c'è mai andato in questi bordelli? Una volta, no, in Svizzera, in Austria? Assolutamente no, ognuno c'ha i propri. Ma le sedi del PD, quelle esistenti, non sono mica dei bordelli, Giarrusso. Ma lei dice? Lei dice che sono dei bordelli, sono. Cioè lei sta dicendo, io penso, ma dai, che sono molto animate le discussioni. Ma c'è tantissima gente onesta su che fa politica dal basso, apposta. Ma come d'accordo. Si fa? Difatti per questo li commissariano, per cacciarli via. Ma... come ha visto in Sicilia nella trasmissione, no? Cacciano via gli attivisti del PD e mettono dentro tutta la feccia della vecchia. Cioè lei sta dicendo che il PD uguale mafia. No, beh, ma assolutamente. Ma non offendiamo la mafia, che ha tradizioni bicentenarie. Il PD è una cosa recente. No, scusi Giarrusso, adesso non offendiamo la mafia. Lei sta dicendo che se uno fa il paragone PD mafia si non deve offendere la mafia. È pazzesco. Probabilmente sì. No, lei sta dicendo che il PD sostanzialmente è un partito mafioso. Assolutamente, questo lo dite voi. No, come lo dico io? La sta dicendo a un lei. Cittadino, cose che non ha detto. Potreste pentirvene. Lei ha detto poco. Di peggio. Lei ha detto poi di considerate peggio. Considerate che fra poco faremo chiudere il vostro programma. Quindi, siamo pronti. Questa è la svolta di Grillo: chiudere i programmi televisivi e radiofonici. Il vostro. Ah, no, solo questo. Di quelli seri. Ma innanzitutto, ho saputo una cosa: che voi prima scegliete un leader nuovo, poi vi tirate indietro, poi dite che i candidati si devono scegliere. Non più sul web, poi ci ripensate, è un gran casino. Sono il cittadino Giarrusso, si è confuso con qualcuno del PD? No, come cittadino? Che c'entra? Ah, perché ho detto senatore, che ho detto? No, perché ha fatto tutto un excursus, noi non abbiamo scelto nessuno. Lo sceglierà il web, come abbiamo sempre detto, lo ripetiamo da tanti anni. Il web, no, però fatto. Qualche mese, qualche settimana fa sembrava no, web retromarscia. Meglio farlo scegliere. No, quelle sono le cose dei che giornalisti. I giornalisti, per carità, sempre i giornalisti. Sempre giornalisti. Ma lei il nuovo inno lo sa o no? No, assolutamente. Guardi, ma che imparerò presto a memoria. Immagino che voi già lo conoscete. No, è agghiacciante, direi. Faglielo sentire. Facciamolo sentire a Giarrusso. Guardi, che è veramente agghiacciante il nuovo inno dei 5 Stelle. Sentiamo. Lo facciamo solo noi. Cosa fate solo voi? Di salire sopra il tetto. Ah, salire sopra il tetto. Do it better. Movimento 5 Stelle, do it better. Mi pare che faremo le magliette. Aspetta. lo facciamo solo noi. Veramente do it better. È stupendo. Per me. Di restare sempre noi stessi. Stupendo. Per amore di onestà. Solo noi, canti con noi, lo bellissimo questo inno, cantato poi da voi ma due, lo facciamo solo noi, sembra un inno da stadio, meraviglioso. Anche se lo cantate non mi salverete, anche se infatti, cantate... ma non era meglio fare che so hanno ucciso l'uomo ragno? Aspetta, come... aspetta. Loro distruggono la scuola pubblica. Sì. Non è vero. Noi finanziamo le piccole imprese. Ma non è vero, come? Loro fottono con la politica. Però non è male, eh? Non è male, dai. Sembrava male. Ghiacciante, invece. No, è stupendo. No. Certo, fa un po' di impressione cantata da voi, però vai. Insomma, non ci salviamo. Io però vi voglio, scusi Gerusi, io mi voglio in qualche modo salvare la pelle. Cioè, quando voi arriverete al potere, e arriverete al potere, diciamo la verità. Io, ci ricorderemo di voi. No, io devo salire sul carro e dunque devo imparare a memoria questa roba, capito? Allora, io penso che più che salire sul carro, finirete sotto il carro. Come sotto il carro, no? Sì, faremo pure marcia indietro. No. Ci arrotate. Ma quali sono i giornalisti che farete subito fuori? Vespa, per esempio, lo facciamo fuori subito quando arriva dal potere, sì. No, quello si fa fuori da solo. Un altro paio di trasmissioni di quelle non ci arriva nemmeno. Vabbè, ma comunque uno di quelli da fare fuori subito, Vespa. Ma no, ma se non ci fosse lui, come potremmo mai prendere il potere in questo paese? Cioè, dice Vespa è la premessa. Ah, grazie a Vespa, voi prendete il potere. Datemi un altro, datemi un'altra strofa, dai. Tutti i pregiudicati d'Italia. Aspetta, datemi un'altra strofa. Pure Grillo è andato, in quanto anche lui pregiudicato, peraltro. No, pure io ci sono andato. Beh, ma anche Grillo è pregiudicato. Però lei non è pregiudicato. Datemi un'altra strofa, dai. Vabbè, Gianrusso, io voglio capire una cosa. Ma cos'è questo rumore? Ma che ne so, era la canzone. La Bindi ha detto una cosa su Napoli oggi, della camorra che è nel dato costitutivo di Napoli. Lei che dice? Ha avuto un lapsus. Cioè? Stava pensando all'ultima riunione del gruppo del PD. No. Ancora questa storia. No, pensava... Ma non si può, dai, veramente. Per un attimo ho avuto una... Cioè lei dice pensava al PD. Quando ha parlato di Camorra e pensava al PD. Sì, appunto, ho avuto questo, non so per quale motivo, ma... Pensava al PD. Però Gianrusso, lei sta dicendo che Camorra uguale PD, che PD uguale Camorra. Scusi, Gianrusso. Allora, guardi, scusi, io penso che... Se lo sente quel rumore in linea, no? Sono i casalesi che chiamano, oh, qua siamo gente seria, mica come il PD, stanno chiamando per lamentarsi in trasmissione. Cioè di che cosa? Ah, sono offesi... Che sono gente seria. Sei gente seria, rispetto al PD, casalesi, sono meglio i casalesi. Ho detto che sono gente seria e pericolosa. Beh, gente seria e pericolosa, dunque... La differenza col PD, che non sono seri ma sono ugualmente pericolosi. E dunque meglio i casalesi, da un certo punto di vista. Cioè, se vi piacciono. Cioè, se lei, no, se lei dovesse... Io tutte e due vi consegnerei ai casalesi. Cioè, no, però, tutte e due chi? Lei e il suo collega. Ah, noi due, noi due casalesi, non ho capito bene. Poi ci sarebbe da ridere davvero. Se, no, ma noi che c'entriamo che casalesi adesso? Noi veramente con la camorra non c'entriamo. No, ma io non capisco veramente questo paragone con la mafia, ma è agghiacciante. Scusi, cioè, è il primo partito italiano. Quale paragone, per piacere, non offendiamo. Non offendiamo. Cioè, lei sta screditando migliaia di iscritti al Partito Democratico. Assolutamente, quelli vengono sfruttati, ma tanto saranno rottamati. Ma non l'avete capito? Gli sta rottamando Renzi. Sì, ma il capo dei mafiosi. Vuole negare che Faraone è il suo delfino naturale, l'evoluzione della specie. Ma che c'entra Faraone adesso? Scusi, no? Che c'entra Faraone? Come che c'entra Faraone? L'operazione di Faraone in Sicilia ha rottamato tutti gli iscritti del PD e ha imbarcato tutto quello che poteva imbarcare. Io voglio capire una cosa. Lei, se pensa che il Partito Democratico è sostanzialmente un partito pieno di mafiosi, lei pensa di conseguenza che Renzi è il capo dei mafiosi? Tutti questi sillogismi. Lei non era bravo a scuola, vero? No, ero bravo. Non lo bocciavano. In filosofia la bocciavano. Non mi hanno mai bocciato. Averne prese di bocciature in filosofia. No. Ma qual è il senso? Non ho capito del paragone. Lei fa parte della commissione antimafia. Bindi oggi ha detto una cosa: che la camorra è nel dato costitutivo di Napoli, nella costituzione di Napoli. Lei ha risposto: pensava al PD. Dunque, sta dicendo che il PD, la camorra è infiltrata nel DNA PD. Del PD. C'è la camorra. Vedere certe facce che sostengono il PD, insomma, nelle terre di camorra, effettivamente non si resta. tanto rassicurati, ecco. Vabbè, scusi un attimo, adesso concludiamo con questa cosa, Gianrusso. Oggi un suo collega ha detto che il Papa copia dal programma dei 5 Stelle. Le giuro. Lei ride, però questa ha una umanità, bellissima risata, però è uno di voi, è ha detto che il Papa copia dal programma dei 5 Stelle, quelle per esempio di non far pagare l'IMU agli alberghi, che in realtà i conventi che funzionano ad alberghi, è una proposta che voi avete fatto come tanti altri. Questo senza alcun dubbio. Ma allora ho capito, anche lei è convinto che il Papa copia dal programma dei 5 Stelle? No, io penso che sia un grande Papa, questo sicuramente. Vabbè, quello è ovvio, è scontato. Questo collega ha preso una giornata di sole. Quest'altro è un cretino. Ma ce ne sono tanti in giro di cretini alla radio, io per esempio ne sento in questo momento tanti. Sì, no, per carità, d'accordo, perché non fanno politica, però. Uno più, uno meno, insomma. Sì, che non hanno ruoli però in politica. Vabbè, Gianrusso, saluti, a presto, arrivederci. A presto. Allora, io penso che più che salire sul carro, finirete sotto il carro. Faremo pure marcia indietro dopo aver fatto marcia avanti. State ascoltando un programma offerto da G-Group, la prima multinazionale italiana del lavoro. Scopri i nostri servizi su ggroup.com. La Zanzara. E tu non sei un uomo, Cruciani, non sei un uomo, perché non hai rispetto, non hai rispetto delle persone. In realtà il deputato Alberti dei 5 Stelle, che ha detto che il Papa copia il programma dei 5 Stelle, cioè ha detto una puttanata inaudita, mega galattica, non è però il primo, perché anche il suo capo Grillo nel 2013, siamo andati a ripescare questa roba, 2 anni fa, carta canta, voce canta in questo caso, 19 maggio del 2013, diceva la stessa cosa, non so se ridendo o no, perché poi Grillo non si capisce mai, eh. Io ho fatto un omaggio a questo Papa, non potevo altro che omaggiarlo e riempirlo di affetto, perché è un Papa straordinario, è un Papa che ha detto che i problemi e la crisi qua vengono fuori sui giornali e sui media, i problemi delle banche quando vanno in crisi le banche, ma i veri problemi sono la fame, la gente che si ammazza e le imprese che chiudono, ha detto esattamente una parte del nostro programma. Comunque ragazzi, se riesce a fare pagare quei conventi, che in realtà una parte di quei conventi che pur funzionando da alberghi se ne fottono dell'IMU eccetera, non pagano l'IMU eccetera eccetera, è un grande, è una rivoluzione, se riesce, se riesce, perché poi una cosa sono ma le chiacchiere, ma quello mica c'ha le elezioni, mica ha il consenso, no. Quello lì, lui va dritto. Come no, ma è all'interno della curia, come no, serve va il consenso, non ti credere. C'è guerra là dentro, si battaglia là dentro, anche là c'è da fare una battaglia. Beh, si battaglia sicuro, ma sì, si battaglia, si deve battagliare con quei conservatori, non è che al Senato c'è la legge, la commissione, non ha la minoranza del PD. No, la minoranza del... Però guarda che può essere peggio, qualcuno può essere peggio. Certo. Può essere peggio. Allora, io voglio dire all'amica Claudia Gerini che mai toccare i tassisti. Allora, la questione è molto semplice. E soprattutto mai entrare in Twitter senza rendersi conto che se fai una cazzata o se dici una cosa un po' scomoda, possono sommergerti di insulti. Ora, stupirsi che dopo aver detto i taxi a Roma fanno schifo c'è gente che ti insulta, francamente è una cosa pazzesca, significa non conoscere il mondo della realtà. Dunque, che succede? Claudio Genini scrive una cosa dicendo che il servizio taxi a Roma fa schifo perché non ha trovato un taxi pronto a termini. Non è che c'è sempre il taxi pronto, uno deve togliersi dalla testa che il taxi è qualcosa che è sempre a disposizione. Ci sono dei momenti in cui uno deve aspettare, in cui uno deve aspettare, c'è poco da fare. Così succede in tutte le cose del mondo, può succedere anche per i taxi, cioè non è che sono immediatamente disponibili sempre in ogni momento, ci sono dei momenti di congestionamento al di là delle cause e dei, come dire, del momento esatto in cui ha chiamato la Gerini, non so in quel momento che cosa stava succedendo. Comunque poi non ti puoi stupire che la Claudia Gerini del fatto che su Twitter viene insultata, è normale che viene insultata dalla gente che si incazza perché dice che il servizio taxi a Roma fa schifo. Poi ti scusi. Insultata no, dai, però. Ma sì, ma io dico no, che è normale, non perché lo farei io. Cioè, non perché sono delle bestie quelli che insultano, non c'è dubbio. No, quelli ma che minacciano soprattutto. Ma va bene, ma uno non si può stupire. Oddio, che è successo, ma è normale che è così. E poi ha chiuso il profilo Twitter dicendo: ho capito di non essere capace a usare Twitter. Su. scuso con tutti i tassisti di Roma che si sono offesi per il mio sfogo troppo impulsivo e collerico, ma lamentavo un disservizio grave. Va bene ragazzi, 800 24 00 24. Alberto da Milano, vai Alberto. Sì, ciao, volevo dire semplicemente che è questione di tempo magari di aspettare un presidente del Consiglio con una moralità maggiore, ma che comunque questo che va a vedere partite di tennis è sempre meglio di quell'altro che faceva il cargo di mignotte per la Sardegna con gli aerei di Stato. Sì, ma il cargo di mignotte per la Sardegna, per carità, no, era un cargo di mignotte per la Sardegna, non c'è dubbio. Faceva salire gente che non aveva diritto di salire sugli aerei di Stato che, se non mi risulta, in alcuni casi, non in tutti i casi, in alcuni casi si pagava lui di tasca sua, con gli aerei privati suoi. È successo sicuramente che in qualche aereo di Stato sono salite le mignotte di Berlusconi, non c'è dubbio. Comunque le ragazze che lo accompagnavano a Manchester a vedere il Milan e tutto. Ah, io non lo so, guardi, costi ribaltati su di noi, quindi quello le possibilità le aveva più di questo. Che siano aumentati, che nonostante la sua ricchezza privata durante il periodo di presidenza del Consiglio di Berlusconi siano aumentati i costi della flotta pubblica, chiamiamola così, questo non c'è dubbio. Sì, però adesso cosa c'entra con questa storia di Renzi che è andato a vedere la finale dove gareggiavano due italiani? È intervenuto, ma veramente una fallo parlare. Non diceva parlare te, Alberto, basta, che diceva lui, ma diceva fallo, lui, ma no, ma fallo parlare invece lui. No, vuole io dico che non c'è niente di male che a confronto a quello che siamo abituati, questo è un intervento da statista. Ma il problema non è il confronto con Berlusconi, Alberto. No, sì, ma non c'entra niente. È tutto relativo. Maestro, non stiamo facendo cose squallido, partiamo da quello. Sì, però è un altro discorso. Renzi si era, come dire, presentato a mio parere in un altro modo, per cui anche i piccoli risparmi, 200.000 euro di risparmio delle casse pubbliche. Sì, ma questo è ridicolo, dire 200.000 euro di risparmio delle casse pubbliche. Per allora, per te 200.000 euro sono ridicoli. Per te 200.000 euro sono ridicoli, va bene. È ridicola la polemica. Comunque perché quegli altri ci andavano. Allora facciamo dei continetti. Quegli altri ci andavano. Ma chi ci andava? Ma che c'entra? Malagò è il presidente del CONI. Malagò, scusa, quell'altro della esatto, quello ci andava comunque. Quindi i costi, parte che non credo, parte di costi sarebbero comunque andati sullo Stato. C'è un delta di costi in più su di lui che non mi sembra scandaloso. Allora, rispetto a quelle altre, guarda, è ovvio che 200.000 euro sono 200.000 euro rispetto alla, a un bilancio dello Stato, devi dire, non a una persona qualunque. Quello è ovvio. Contano anche le piccole cose. Anche per cose, me 200.000 euro è una cifra pazzesca, ovviamente. Ma 200.000 euro, si danno piccoli segnali, si mandi un messaggio via Twitter, mandi un messaggio video. Vabbè, ma alle volte anche la presenza in quel caso. Io sono convinto che bisogna dare piccoli segnali. Anche questi qua servono. 200.000 euro di risparmio servono. In più di Renzi per andare lì non è 200.000 euro, la sua parte rispetto a quello che si sarebbe già speso per mandare tutti gli altri che sarebbero andati comunque, quindi non sono nemmeno 200.000 euro. Gianluca da Napoli, Gianluca, vai. Pronto? Dimmi. Ciao, buonasera. Dimmi. Complimenti per il polverone che si è sollevato per quanto riguarda il discorso Camorra. Cioè, a me fa ridere. Complimenti, che c'entro io? Complimenti. No, dica la Bindi, io non c'entro niente. Sì, no, allora, la Bindi ha detto un'ovvietà e quindi cazzata, perché per me un'ovvietà è una cazzata, però che lo dice un politico ha fatto una cazzata, che lo dice il giornalista, sinceramente fa il suo dovere, perché deve comunque cavalcare l'onda. Il problema è che io non sto cavalcando nulla, io ho detto che ha detto una cosa ovvia la Bindi, una cosa ovvia, assolutamente ovvia. A me fa ridere, perché io sono napoletano e sto tranquillamente, lo confermo che a Napoli c'è la Camorra, però c'è un problema di fondo, che giustamente i miei amici ma ha detto una cosa in più, ha detto una cosa in più la Bindi, non ha detto che a Napoli c'è la Camorra, perché sarebbe stato ridicolo, ancora più ridicolo. Ha detto che è nella dato, è un dato, vogliamo risentire la Bindi, perché altrimenti ma io l'ho sentita. No, aspetta, sentiamo, è nel dato costitutivo di Napoli, è nella costituzione di Napoli. Vabbè, ma è così, ragazzi. Beh, ma di che parliamo, scusa, ma veramente. No, ma voglio capire che cosa significa costitutivo, cioè nella Costituzione di Napoli c'è un'area dove dice bisogna accrescere la Camorra, cioè che cosa significa costitutivo? Ma non vuol dire questo. Comunque Parenzo, giustamente qualcuno mi segnala, l'amico Dino Giarrusso, con 200.000 si fa un pezzo di scuola, con 200.000 euro si fanno un sacco di cose, io ho detto sì, una piccola... Ma l'amico Dino Giarrusso va benissimo, è un simpaticissimo, bravo. No, ma mi segnala questa cosa, con 200.000 euro si ristruttura Giarrusso, una scuola. Però basta con state... ho capito, ma il bilancio dello Stato... Ma perché Stato, devi pensare che 200.000 euro non sono nulla? Sono tanti soldi, ovviamente. Sono tanti soldi, sono tantissimi soldi, ma non c'entra nulla col fatto che il Presidente del Consiglio, ripeto, fosse andato da solo. La mia unica polemica è che è andato con un codazzo, ma quello non c'entra, da solo, quello veramente andare non c'entra lì nulla. A portare il saluto dell'Italia quando due atlete sono arrivate in finale. Vabbè, in allora America, fai la gran cassa anche tu, dai, con la gran cassa. Ma anche la tu. Gran cassa, io dico che Gianluca, deve andare da solo. Allora, che stavi dicendo? Allora, dicevo, voi dite nell'atto costitutivo, oppure avete detto eventualmente nel DNA. Cioè, nel DNA significa che ogni napoletano, quindi me compreso. Ma no, nel DNA di Napoli, nel DNA di Napoli c'è la camorra, non ha detto di questo. Napoli struttura o di Napoli zona? Ah, cioè, amico mio, adesso no, è filosofia questa qui, è filosofia. Dai, nel DNA di Napoli c'è la camorra, punto. Però il problema mio che voglio dire di fondo è che quando si dice camorra associata a Napoli è un po' come la storia di qualche anno fa della monnezza, no? La monnezza, e chi non lo sapesse magari può pensare che è nata a Napoli. I rifiuti non sono nati a Napoli, oppure non si sono la camorra, giusto? La camorra è Napoli, è delinquenza. Sì, ma quello non c'è dubbio che è delinquenza. La camorra, però, uno, che cosa associa quando parli di camorra? Che ti viene in mente? Che ti viene in mente? Scusate, Pescara, quando uno diceva la mala del Genova, Brenta, che la mala del Brenta, cos'era? Ti viene in mente Napoli, punto e basta. Quindi bastava dire, ragazzi, non ho detto niente di sbagliato e di non vero. La camorra è nata a Napoli come sinonimo, come parola, come gruppo, come la corona, Sacra Corona in Puglia, come la mafia in Sicilia, voglio dire, si associa. Allora, che ne so, a Milano che ci stanno i, come li vogliamo chiamare, i milanesi? Oppure quest'ultima notizia della Roma mafia capitale, che significa? Ma non c'entra niente, ma qui stiamo parlando di un'altra cosa, Gianluca. Scusi, come si, la mala del Brenta si chiamava del Brenta perché stava nel Brenta, no? No, io stavo dicendo che si associa una parola. Ma io non ho capito una cosa. Io non ho capito una cosa. Lei si è sentito offeso, sì o no? No, io gli sto ridendo da ore su questa cosa. Su questa cosa. Che ognuno si offende, i miei amici napoletani si offendono, non tutti siamo camorra. È certo che non tutti siamo camorra. Forse magari la Bindi ha voluto dire la camorra è a Napoli. È vero, la camorra è allora a Napoli. Sarebbe stato ancora più ovvio. Va bene, ciao Gianluca, ciao. Allora, Marco, provincia di Caserta, vai. Ciao Giuseppe, ciao. Ciao, dimmi. Niente, volevo dire una cosa, però ne approfitto per dire un'altra, perché... Vai, dimmi, di quello che ti pare. No, approfitto del momento che stiamo parlando di cose serie anziché delle solite mignotte, troie e trans. No, abbiamo parlato di troie prima, di bordelli, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, mi preoccupo. Quindi, guarda che i temi della prostituzione, i temi, adesso parliamo anche di gay oggi, non ci sottraiamo. Per carità, io dico soltanto che a volte esageri, che ti butti sole soltanto su questo. Io esagero sempre costituzionalmente. Per cui... Vai Marco, dimmi. Allora, su Parenzo praticamente, io capisco che lui deve lavorare, l'ho visto alla Sette insieme all'altro giornalista che non so chi è. L'Abate, allora? Però diventare così servo del potere a me sembra che vuol dire servo del potere? Che vuol dire servo del potere? Perché è palese che lui, credo, per tornaconti personali forse. Vabbè, dimmi come la pensi, di quello che pensi, dai. L'ho detto che tira il carro palesemente al Partito Democratico. Non tira il carro proprio a nessuno. È evidente, lui si evidente per lei. Se lui ha la sensazione che tu sei vicino al Partito Democratico, è evidente per lui. Ma certo che è evidente, lui sta parlando lui, mica. E io gli dico che non è così. Come difende anche l'indifendibile. Ragazzi, però che tu hai diversi amici e sei abbastanza vicino al Partito Democratico, non è che lo dici. Ma dipende, ma io sono, credo di essere obiettivo però nel dire una cosa. Ma quello è un altro discorso, però dopodiché certamente non sei un simpatizzante del centrodestra, hai votato sempre il centrodestra. Ma non c'entra con la mia professione. Ma scusa, tu mi accusi di essere portavoce di Salvini, non ti posso dire nemmeno che sei vicino al Partito Democratico, guarda che sei incredibile. Ho detto, cioè tu mi accusi di essere... Peggio, credo che tu metti la benzina nella ruspa. Va bene, lasciamo perdere, accetto tranquillamente questa provocazione. No, nel senso che alimenti quel clima anti-immigrante. Anti-immigrante. Certo, sì. Mettendo la benzina dentro oggi la ruspa, con tutti i paesi europei che chiudono le frontiere sono io che alimento il clima anti-immigrati. Ma dai, beh, che c'entra, non è che... Ma dai, su. Allora, la Bindi ha detto una boiata o ha fotografato semplicemente la realtà dicendo che la camorra fa parte della Costituzione di Napoli? È Napoli! A me pare che abbia detto una cosa assolutamente scontata. Dunque, tutta questa levata di scudi dei napoletani, del sindaco De Magistris, eccetera, eccetera, sulla Bindi mi sembra. Io ripeto, faccio anche un piccolo sforzo perché la Bindi non mi è particolarmente simpatica. Penso che, insomma, no, sia anche un vecchio cadavere della politica, diciamolo tutto. Una persona, ma detto con tutto rispetto, per la Bindi, non lo sto paragonando a un cadavere, però sia un po' un ferro vecchio della politica, ecco. Però va benissimo, è presidente della commissione antimafia, è in Parlamento, farà l'ultimo giro in Parlamento, va bene. Ha detto una cosa ovvia, ha detto una cosa scontata. I napoletani non si possono arrabbiare per questa roba qui. Domenico De Masi, che dice lei? Ma io dico che se la Bindi voleva dire che da quando c'è Napoli dopo l'Unità d'Italia fino ad oggi c'è stata sempre la camorra, sì, e che quindi la camorra è parallela, diciamo, a Napoli in eterno, ha ragione. Se voleva dire che un napoletano, per il fatto di nascere a Napoli, ha nel suo DNA la camorra, ovviamente non aveva ragione. Ma no, ma questo no, questo bisogna no. capire cosa significa la parola così. Ma no, no, ha detto... io immagino che fosse la prima cosa. È la prima cosa, ha specificato che non parlava di DNA. È evidente che però non ha detto solamente a Napoli c'è la camorra, sarebbe stato ovvio, De Masi, no? Cioè, ha detto anche che la camorra è un dato, come dire, praticamente ineliminabile. Cioè praticamente che... ineliminabile, diciamo la verità. No, praticamente ineliminato. Ineliminato, ma anche ineliminabile. Non c'è nulla. Io credo che sarebbe eliminabile, come è stata eliminata in altri paesi e in altre circostanze, come è stata in alcuni momenti furibonda, in altri momenti del tutto. Ma non è per l'eternità, lei ha detto prima, non è per l'eternità la camorra. L'eternità? Non è... per l'eternità non è niente. Non c'è le cose niente. Che nascono poi finiscono pure. La camorra può finire con un impegno serio da parte di tutti, naturalmente. Ma può fatto bene la Bindi alla fine, altro. Io credo che finirà, anzi, credo che finirà. Cioè che un numero crescente di napoletani capirà. Guardi che quando la camorra è così virulenta come in questi giorni, significa che è debole, non che è forte. Ma è al di là di questo. Come la mafia, la camorra come la mafia è forte quando lavora sott'acqua e non ha bisogno di ammazzare nessuno. Insomma, alla fine la Bindi ha ragione, insomma, questa è la sostanza. Lei dice, sì, ma credo che proprio non c'era bisogno di fare tutto sto casino. È che i napoletani, e io sono in qualche modo appartenendo alla cultura napoletana, appena hanno un appiglio di questo genere, in un mio libro. Che di 800 pagine pure. Ci sono dedicate 10 righe alla pizza, in cui io dico che reputo la pizza come una delle boiate più grosse prodotte da Napoli. Io ho avuto minacce di... Ma perché? Non ho capito questa cosa. Perché tu dici, scusa, di te tu... Dammi pure del voi, non ti preoccupare. No, perché adesso, secondo Umberto Eco, non si può dare del tu. Siccome, ha ragione su siccome quello che dice Umberto Eco, di solito bisogna fare il contrario di quello che dice Umberto Eco. Io faccio esattamente il contrario. Allora io dico adesso do del tu a tutti, indiscriminatamente. Vabbè, ragazzi, devo essere per forza d'accordo con quello che dice Umberto Eco. Però spiegalo bene cosa ha detto. Non perdete tempo, parliamo della camorra. No, aspetta, c'è questa cosa della pizza, Domenico, che è interessante. Ecco, no, perché dico che ci sono dei miti a Napoli, il caffè, la pizza, su cui ci gingilliamo continuamente, su come deve essere. Ma che è scritto sulla pizza? Invece di parlare di cose serie, la pizza è una cosa interclassista che metti insieme tutti quanti, danno la birra. Una boiata. Abbinazzati, sì, proprio. Sì, è una cosa, ma non è che uno deve dedicare tutta questa attenzione alla pizza e al caffè, mi pare eccessivo. Concentrarsi sulla pizza a Napoli significa restare eternamente, ecco, pizza e camorra vanno insieme. No, non ho detto questo, in carità, la pizza è molto più innocente della camorra. Però la pizza margherita è stata fatta per leccare il culo praticamente alla regina Margherita, non per altre cose. Come la canzone Torna a Sorrento, tutti si credono che è una canzone d'amore di un innamorato che dice a un'innamorata torna al sorriso. No, era fatta per il direttore delle poste che fece una visita a Sorrento, e allora per leccargli i piedi la canzone torna al sorriso. E che c'è di male però? No, perché noi abbiamo questa visione. Noi napoletani abbiamo da una parte un forte senso della dignità, eccetera. E poi c'è tutto il resto, come nei confronti della camorra, ci sono quelli che fingono che non ci sia, quelli che in qualche modo sono conniventi e quelli che stanno lì a mezza strada e a volte battono il cerchio e a volte la botte. Cioè quelli estranei alla camorra a Napoli quali sono? Quanti sono? Pochi? Alla fine? Gli estranei alla camorra? Proprio quelli estranei alla camorra, quanti sono? No, per carità. No, estranei, cioè no, i camonica... tantissimi. No. Gli estranei alla camorra, cioè che non partecipano a fatti camorri o non condividono, che non hanno neanche rapporti, nulla, né che hanno rapporti e né... No, ma quella è la camorra che decide con chi avere il rapporto, non so se è chiaro. Se io sono pezzente, la camorra di me non gliene frega niente. No. Se io invece ho un esercizio, se ho una macelleria bene avviata, interesso alla camorra che mi chiede il pizzo. Però in percentuale, no? Volessi, professor De Masi, dare una percentuale. In percentuale, quanti sono quelli... No, questo non me lo so. Secondo dire, lei? Chiedetelo, chiedete a Peppe Severgnini, insomma, queste persone. Ma che c'è Severgnini? Di Napoli Severgnini? Io appunto a uno che non ne sa niente, perché non sono cose che... Vabbè, non, il sindaco non... comunque, il sindaco si è incazzato, eh? De Magistris spesso... si incazza sempre, che fa oltre che incazzarsi? Che ne so, si è incazzato per questa frase. C'è qualcosa di fatto da questo sindaco oltre le incazzature? Non mi pare. Sei incazzato perché dice da saltare sulla sedia la frase della Bindi. Da un'immagine della città. È da saltare sulla sedia che si sparano tra loro dei 17enni. È da saltare sulla sedia che viene presentato come fatto pedagogico il serial della Gomorra, che invece è stato pedagogico in senso negativo. Cioè lei sta dicendo che Gomorra è stato negativo? Non il film. Assolutamente. Che cosa? La serie Gomorra. Ah, la serie, vabbè, la serie. Assolutamente negativa. Adesso torniamo su questo. Adesso mi dice qualcosa su Gomorra, che è interessante, perché stanno finendo, sono in corso ancora le riprese della seconda serie. Brucida. La Zanzara. Allora, siamo con il sociologo Domenico De Masi, perché a Napoli sta succedendo un casino su queste frasi pronunciate da Rosi Bindi, presidente della commissione antimafia, alla quale ha detto che la camorra è un dato costitutivo di Napoli, qualcuno l'ha interpretato nel DNA di Napoli, lei dice non l'ho mai detto, però De Masi, lei dice ha ragione la Bindi, è nel dato costitutivo di Napoli, cioè morirà tra 100 anni, come si può dire? Dunque, sappiamo che intanto che Napoli è una città con altissimo tasso di violenza. È intrisa di camorra, perché, questo voleva dire la Bindi. No, intanto siamo alla violenza, poi arriveremo a quella organizzata. Per esempio, io dopo questa trasmissione, se fosse una trasmissione su Milano e facessi una critica su Milano, ci sarebbero alcuni che poi a loro volta criticano me. Sì. Dopo questa trasmissione, invece, siccome ho criticato alcuni aspetti di Napoli, avrò 2, 3, 4 SMS di minaccia di morte, eh? Addirittura minaccia di morte. L'ho avuto anche dopo l'altra trasmissione che abbiamo fatto insieme su Napoli. Sì, l'ho avuta la settimana scorsa, dopo una trasmissione con Di Mare a 1 mattina, sono arrivate 4 minacce. Perché Napoli è più violenta delle altre città per una serie di motivi storici. Cioè Napoli è più violenta delle altre città? Sì, non perché è più povera delle altre città, perché sono città perché, molto allora? Più povere di perché, Napoli. Perché i napoletani sono più violenti? Perché? No, è complicato. Il primo libro che scrissi si chiamava La negazione urbana 40 anni fa. Vabbè. Era già per cercare di capire come è più violenta delle altre città. Per cui se uno dice una cosa, diciamo, negativa su Napoli, viene minacciato di morte, viene anche minacciato di morte. A Milano non succede? A Milano non succederebbe, a New York non succederebbe. E questo c'è da vergognarsi di questa roba qua? È particolarmente sensibile per una serie di elementi. Vabbè, ma c'è da vergognarsi o no? Sociali, c'è da vergognarsi fortemente, soprattutto per un fatto, perché oggi è violento fino alla minaccia di morte soltanto chi è totalmente cretino. Cioè la civiltà consiste nel fatto che invece di ammazzare il nemico lo faccio fallire, lo mando in galera, eccetera. Stare ancora a punire con la morte è una... Per cui lei sta dicendo che Napoli è piena di cretini? Non c'è dubbio. Cioè tutti i camorristi sono dei cretini. No, cioè, dico Napoli è piena di cretini. Tutti camorristi, no, tutti i camorristi sono cretini. Ma siccome non tutti i napoletani sono camorristi... No, d'accordo, però il tasso di cretini è più alto evidentemente a Napoli, che ne so... Ma questo mi sta facendo dire una cosa... No, ma è una tautologia, è una conseguenza di quello che... Io e lo dico a piena, che quando uno decide di fare un'attività in cui è in ballo anche la vita, una vita per motivi di violenza, per motivi... È un cretino. C'è niente da fare. Vabbè, d'accordo, dunque lei sta dicendo sicuramente mi minacceranno di morte per quello che dico, anche se soprattutto se dico che ha ragione la Bindi quando sostiene che Napoli è costituzionalmente camorra, giusto? Ma anche se la mano della pizza o del caffè è considerato minacciano di morte pure che se lei parla male della pizza. Sì, vabbè, mi è capitato. Ma è pieno di cretini in giro. Non solo, presentavo il mio libro a Napoli, a Milano, con la polizia fuori. Hanno telefonato dicendo che sarebbero venuti a picchiarmi. Perché è violenta la città, c'è poco da fare, è molto più violenta delle altre città d'Italia. E questo è un elemento forte. Per uno cui, che cioè un turista, che fa? Non dovrebbe, cioè è complicato andare a Napoli. Se lei fosse infatti ci vanno in pochi. Se lei fosse un turista non ci andrebbe, diciamo. No, ma non è vero che vanno in pochi a Napoli, dai. Lei ha 5 turisti contro i 16 che vanno nel Veneto a Napoli. È una percentuale minima dovuta a questo. Cioè, se lei fosse un turista, ma questo vale anche per il Brasile. Sì, Brasile, beh, certo, che potrebbe essere una delle attrattive più. Ma che paragona Napoli al Brasile, però? Beh, sì, no, certo, a livello di violenza, sto dicendo sì. Questo. Dico, sto dicendo che il turismo è basso in Brasile a causa della violenza. Il turismo è basso a Napoli a causa della violenza. Ma però quando uno dice delle verità, cioè perché poi deve essere subissato? Ma, credo, però, ma come no? È la verità che dice De Masi. Su, ma io sono a Napoli tante volte, non è che ho paura di andare se a Napoli. Uno, no? Se un turista saggio, secondo lei, un turista col cervello, De Masi, va a Napoli secondo lei? Ma un turista col cervello col giubbotto o disinformazione o coraggio. Ah, ci vuole coraggio, bisogna essere o coraggiosi o disinformati. O coraggiosi. Ma provi lei ad andare a Forcella portando un Rolex. Ci provi. No, pure col giubbotto antiproiettile si può andare. Scusa, che Forcella con Rolex, lei andrebbe col giubbotto, se fosse un turista, gli consiglierebbe un giubbotto antiproiettile? Ma no, gli consiglierei. La scorta. Di andare nelle zone più sicure, eccetera, ma questo è già un degrado. Non so se è chiaro. Ah, non c'è. Dovete avere in una città zone dove si può camminare. Ma io non ho capito Gomorra, non ho capito Gomorra perché è una cosa negativa, secondo lei. La serie. Bellissima quella serie. Il serial è una cosa, dal mio punto di vista sociologico, estremamente negativa. Ma perché è negativo? Per l'imitazione, è una continua dimostrazione di come si fa il male, la violenza, senza nessun antidoto. In tutte le puntate non c'è un antidoto. Cioè non c'è un poliziotto, dice lei. Non solo, ma a Napoli ci sono dimostrazioni continue contro la camorra, persone coraggiosissime contro la camorra. Cioè lì il coraggio è dei criminali, si non mostra solo. Non se ne vede uno, ecco appunto, il coraggio è solo dei criminali in quelle trasmissioni. Lei la proibirebbe? Cioè farebbe qualcosa per... No, io mi al posto italiano ci inserirei anche altri contenuti. Non proibirei niente perché non proibisco niente in una società democratica, sì. Però ho tutto il diritto di dire che è una operazione proprio criminale. Un'operazione criminale? Ma addirittura, ma non è vero, ma è stata venduta anche all'estero, una cosa straordinaria, per la prima volta in Italia. All'estero sono contenti di prendere, ma non è vero, di prendere Gomorra, che cazzo gli frega in Germania di mostrare. Perché vuol dire che è fatta bene, che è straordinaria, che è ben scritta. È fatta bene sì, ma che significa che è fatta bene? È fatto bene pure Sad, è fatto bene pure la Wehrmacht. Ma ne viene fuori tutta... Ma come la Wehrmacht? Le SS erano fatte benissimo da questo punto ma che di c'entra questo con una fiction televisiva? No. Scusi, da questo punto di vista ha ragione. Da un punto di vista di... Io sono sociologo, mi scusi. No, ho capito, professore mio, però... Per me i media sono più forti di un conduttore. Ma d'accordo, ma ha ragione De Masi quando dice che... Ha ragione De Masi, tu che sei un libertario totalmente. Ha ragione De Masi quando dice una cosa. Ma sei forte, no, ha ragione De Masi quando dice... Ma qual è l'emulazione? Io questo non sono d'accordo. Perdere. Quale sarebbe l'emulazione che ci sarebbe e l'elogio adesso dei criminali? Sono degli assassini quelli adesso di Gomorra. Adesso te lo spiega. De Masi dice un'altra cosa. Può essere anche fatta perfettamente, come era la Wehrmacht, però... come era l'esercito nazista. Il, come dire, l'influenza che ha... Quale influenza? Cosa vuol ma dire? Ma lascio, questo, quello che dice De Masi è una questione di principio. Dice l'influenza che ha sulla società. Posso fare un esempio? Sì, posso fare facciamo un esempio. Quello allora, della Wehrmacht. C'è una scena in cui, che so, una decina di ragazzi di 15, 16, 17 anni discutono su come loro ammazzano. Sì. Ma tu come ammazzi l'Achille? Gli spari in faccia o gli spari in back power? Dà l'idea della brutalità, della camorra. Secondo lei questo è un fatto pedagogicamente positivo? Ma non c'entra pedagogico, dà l'idea della brutalità della camorra, no? Cioè, che secondo vuol dire? Lei c'è un effetto di imitazione? Perché abbiamo bisogno di esempi per sapere la brutalità della camorra? No, ma allora mettiamoci d'accordo, o la televisione deve insegnare, ma non che deve insegnare la buona educazione, ma guardi, questo non penso. In una città violenta non c'è spazio per questi intellettualismi che sta facendo lei. No, non è intellettualismo. C'è bisogno di andare proprio dritto. Ma infatti la cosa straordinaria di Gomorra è che mostra la brutalità, la cattiveria di questa associazione criminale. Bisogna dire questo a gente che già sul crinale tra illecito e l'illecito. Un ragazzo di 17 anni che sta lì. Che fa? Guarda Gomorra, guarda Gomorra. Lo deve fare, come si fa? Cioè guarda Gomorra e diventa passa la criminalità, dice lei. Mo io sono così cretino da dire una cosa così. Che parale. Ne so, lei ha detto un ragazzo qua. Le sto dicendo che allora, contribuisce fortemente a creare un clima di quasi stima per chi fa quello. Ho capito, ho capito. Di simpatia. Professore, auguri. Grazie, mi raccomando, con le minacce di morte. Mi raccomando, con le minacce di morte. Professore De Masi. Voi state su, quindi il problema noi ce ne sbattiamo i coglioni, è vero. Però, però siamo con lei, non si preoccupi. Se, sono, lei vive a Roma, che gli se ci sono problemi, grazie. Lei a Napoli, a lei a Napoli col cazzo che ci va, professore. Come non ci vado, in questo momento sto in Campania. Sì, però, Campania. Però dopo le minacce di morte che fa ancora va a Napoli, no? Come non ci vado? Ci va, giustamente, meno male. Ma meno ci male. Mancherebbe altro. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci, buone cose. Sempre il numero uno, prof. Allora, Filippo da Modena, 800240024. Filippo, vai. Ciao ragazzi. Sì, sì. Allora, io ho chiamato per fare una battuta. Tanto, ma ragazzi, tipo, mi prudono le mani qua. Mi prudono le mani a me a sentire certe cose. Mi prudono le mani. No, mi prudono le mani, no, a sentire te. In una scuola di Trento, certo, in una scuola dell'Istituto Vescovile, Parenzo, dell'Istituto certo. Vescovile, ma pur sempre una scuola paritaria, cioè probabilmente noi diamo dei quattrini a questa scuola, no? Probabilmente. Una scuola cattolica, insomma. Una scuola cattolica, sì, ma non è che nelle scuole cattoliche si può fare il cazzo che vuole, cioè ognuno può fare il cazzo che vuole, cioè bisogna sempre rispondere a certi criteri nelle scuole cattoliche. Allora, altro che libri sul gender, altro che libri sulla sessualità. Beh, scrivono altre cose, si diffondono altri libri. Ripeto, in una scuola di Trento, in una scuola di Trento, si insegna ai ragazzi che l'omosessualità è qualcosa, una tendenza non che si ha dalla nascita, ma un qualcosa che, no, si, una specie di contagio di da cui si può curare, da cui si può uscire. Si può modificare il proprio orientamento, anzi si deve modificare il proprio orientamento sessuale. L'omosessualità si presenta quindi come una tendenza contro il progetto di Dio. Cioè, insegnano ai ragazzi queste boiate, che l'omosessualità si presenta come una tendenza contro il progetto di Dio. Va bene, andiamo, dove eravamo? Filippo, sì, Filippo, vai. Filippo, dimmi. Sì, sì, dimmi. Allora, niente, volevo collegare il discorso di Napoli per dire che io sono stato una volta solo a Napoli. Sì. E mi sono fermato in moto, ero in viaggio in moto con i miei amici, siamo fermati in periferia a Napoli a mangiare qualcosa perché era ora di pranzo. Siamo entrati in sto localino, vabbè, c'erano delle facce normalissime. Quando siamo usciti a fine pranzo, facciamo per rimetterci il casco, ci avvicina un ragazzo, dice di essere di Sassuolo, aveva visto le nostre targhe di Modena. Mm-hmm. Dice: io sono di Sassuolo, sono originario di Napoli, sono tornato a casa. E allora, vabbè, facciamo quattro chiacchiere sulle moto, sul viaggio, minimo, alla fine, insomma, facciamo per rimetterci il casco, per andare via. E lui dice: no, no, fermi, fermi, non mettetevi il casco. Mm-hmm. Dico: come non mettete? Vabbè, però quella, la roba sul casco è vecchia, Filippo, roba dai, vecchia, dai. Roba vecchia dai. Sul casco, dai, una cosa detta e ridetta, dai. Vabbè, detta e ridetta, però io me la sono vissuta sulla mia pelle. Poi, la battuta che volevo fare era su Giarrusso. Io ero convinto al 99% dare il voto al Movimento 5 Stelle. Poi quando ho sentito che Giarrusso gli vuole chiudere il programma, ho detto vaffanculo, voto Salvini. Ma no, ma non vuole chiudere nessun programma, dai, su, Giarrusso, Giarrusso non vuole chiudere nessun programma. E poi con quella risata falsa mi ha fatto scendere la catena. No, no, no, basta. Vabbè, ma Giarrusso è uno però, Giarrusso è uno. No, poi mi è tornata in mente quella che pubblicizzava la coppetta per le donne quando hanno il ciclo, ti ricordi quella, mamma quella mia, che si riciclava? Che momenti stupendi. Che fine ha fatto? Non lo so che hanno fatto questi qua, perché quella là, quelli là del coso, perché questo qua che ha detto che il Papa, come si chiama questo qua? Non mi ricordo. Quello del, che il Papa copia il programma del Movimento 5 Stelle? Sì, no comment. Allora, comunque, ragazzi, questo prete l'audio. Di chi? Di quella della coppetta, dai, mi faceva impazzire. Come lo troviamo? Allora, questo prete scrive in un libro che viene diffuso in una scuola di Trento queste frasi: è opportuno mettere in chiaro alcune cose che ti stanno su cazzi froci a te, Filippo, no? A me non c'è dubbio. Un amico che è gay e io lo conosco da quando eravamo bambini, e quando eravamo bambini mi ha detto mia mamma ultimamente, come, guarda che io quando lo vedevo da piccolo già sapevo che questo ragazzo era gay, quindi sono stronzate che non si vedeva. Allora, è opportuno mettere in chiaro alcune cose. L'omosessualità è una tendenza contro il progetto di Dio, e che un rapporto fra omosessuali è dunque sempre da condannare. Poiché ad origine dell'omosessualità non vi stanno cause genetiche, in altre parole gay non si nasce, ma vi stanno certe relazioni che il soggetto ha vissuto in famiglia e in altri ambienti che lo hanno portato a un disordine nella costruzione della propria identità sessuale, è alquanto opportuno accompagnare l'omosessuale perché modifichi il suo orientamento sessuale. Disordine. Ma se uno, io dico, caro prete, don, non mi ricordo come, che hai scritto questo libretto che viene diffuso in una scuola, se uno vuole pigliarlo in culo, lo prende in culo con tutta tranquillità, è una questione semplicemente di gusti. Pubblicità. Voglio più zanzara e meno pubblicità. La zanzara. Ragazzi, è un po' di giorni che non facciamo il peggio di Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Andiamo tutti da Orban. Guarda avanti. Orban è buono però. Costruisci un bel muro. Ne dici anche un po' di filo spinato. Marchia tutti i migranti. Guarda avanti. Adesso questa è venuta bene. Questo è il modello che ricorda un po' la Germania anni 30. Ma no, dai. Ma in realtà salva le nostre tradizioni. Ma non è vero, dai. Metti il filo spinato e il piccolo migrante vedrai che non entra. Oh, dai. Sì. Rimane nel suo paese con i tagli a gola. Ma dai, su, ma sei ridicolo. Tutto per la libertà. Metti il filo spinato. Attacchiamo, dai, chi c'è oggi? Andiamo, sì, andiamo con qualche ascoltatore. Ascoltatore di Radio Padania. E non come l'altro bambino che è stato messo lì vicino al mare, ma il mare quando rimanda una salma la rimanda verticale, cioè orizzontale alle ronde, parallela alle ronde, e non verticale come l'hanno messo lì tutto bello tranquillo con gli piedi già tutti puliti lì per impietosirsi. E noi siamo così fessi ad andare a vedere ogni volta sulla TV il bambino che è stato messo lì. Ma svegliamoci un po' nella tempesta come una madre in figlio. Mamma, questa è buona, state parlando, questa è buona, questa è buona, questa è buona, ma questa è buona, questa sì, è buona, questa è buona, specula sul bambino morto, questa è buona, cosa, ma quello fa schifo. Uno quella sarà persona sarà padrone di decidere, ma è una persona schifosa, ma sarà scherziamo? Padrone di decidere se una cosa che vede, ma fa la moviola sul morto, sul bambino. Aspetta quest'altro, senti quest'altro, schifo, senti quest'altro, che schifo, senti quest'altro, mi fa schifo, senti per capire, senti, non capisco niente, mi fa schifo. Senza dubbi né. Adesso mi cercherò un ungherese perché me la sposo, perché voglio diventare ungherese dopo quello che sta facendo il loro presidente. Sì. Salvi di Roma fuori. Quello che ride. Senza dubbi né, ripensamenti. Questo vuole sposare un ungherese, che sono molto belle le ungheresi. Quello che fa la risatina. Comunque, sai, l'Ungheria è veramente un gran paese. Innanzitutto perché si possono girare i film porno senza nessun problema. È la patria di Rocco Siffredi. Beh, è un paese libero, tranquillo. Un paese dove probabilmente si pagano anche meno tasse. Dove mettono il filo spinato. Dove hanno. Cazzo, dove decidono che qui entra solamente la gente che dicono loro. E che sarà mai? Dai. Che bestia. A me piace quest'Ungheria, devo dirti la verità. Piace quest'Ungheria. Bestia, bestia. Orban o non Orban, Orbo o non Orbo, a me quest'Ungheria non dispiace, guarda, non dispiace. Che me ne frega se Orban è di quale partito è Orban, non me ne frega nulla. Fa la stessa cosa che sta facendo praticamente la Germania o altri paesi. Chiudono le frontiere quando. Sì, poi mettono un po' di muri, fili spinati. Direi proprio. La frontiera con la Serbia, a parte la frontiera con la Serbia, metterei, no, il filo spinato, le torrette con i mitragliatori, metterei a confine con la Serbia. Sali Padania. Ascoltatore Pellegrini. Volevo domandarle, lei ha qualche statistica sotto mano dalla quale si possa dedurre quanti illustri personaggi, tipo scrittori, inventori, scienziati, eccetera, sono di etnia nera. Credo che se andassimo a calcolare la percentuale di persone di etnia ebraica tra i premi Nobel, probabilmente noi che ebrei non siamo dovremmo prendere e buttarci nel cesso per manifesta inferiorità. Cioè, che ha detto il genio di Pellegrin? Questo qua, eh? Guarda, ti assicuro, non ho capito cosa voleva dire. Cosa ha detto? Cioè, la signora voleva dire, sì, c'è una statistica su quanti scienziati sono di etnia nera? La risposta, sì, qual è stata? Non riesco a capirlo. Sentiamo un attimo. Risentiamo Pellegrin, che non si capisce bene. Pellegrin, spiegati, però, quando dici una cazzata, almeno dilla chiara. Senta, volevo domandarle, lei ha qualche statistica sotto mano dalla quale si possa dedurre quanti illustri personaggi, tipo scrittori, inventori, scienziati, eccetera, sono di etnia nera? Credo che se andassimo a calcolare la percentuale di persone di etnia ebraica tra i premi Nobel, probabilmente noi che ebrei non siamo dovremmo prendere e buttarci nel cesso per manifesta inferiorità. Servi di Roma fuori! Questo era il peggio di Radio Padania. Velo chilare. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta La Zanzara. Allora, Subash Cuneo, vai! Ciao Giuseppe, ciao ragazzi. Ciao, dimmi caro, dimmi. Allora, io avevo telefonato perché avevo parlato con Emilio Fede più di una volta. So che, sì, adesso la situazione è diventata preoccupante, molto preoccupante. In che senso? Io l'ho chiamato una volta. Guarda, io l'ho chiamato una volta, la prima volta mi ha insultato, mi ha sparato un sacco di contumelie, di insulti, perché io mi ero spacciato per te. L'avevo chiamato e avevo detto, ma questo avevo già 2 anni fa circa. L'avevo chiamato e ho detto: ciao, sono Giuseppe Cruciani, Radio 24, La Zanzara. Lui mi ha proprio ricoperto di insulti, gli ho solo detto quello, da che è buttato giù. Ma io non l'ho mai chiamato con numero anonimo, sempre con il mio numero. Ma perché lo chiamavi? Non ho capito. Ma lo chiamavo così per passare un po' il tempo, sai. Ma come per passare il tempo? Cioè, uno passa, sì, per passare il tempo chiama Emilio Fede. Chiama la fidanzata. Si chiama anche La Zanzara, no? Però chiamavo anche Emilio. Ma quello va bene, ma chiamati la fidanzata. Ho capito, ma uno fuori è che chiama Emilio Fede, così, per passare un po' di tempo. Pronto, sì, Emilio, sì, Fede, così facevi due chiacchiere. Ma come ce l'hai il numero, scusa? Sì. Vabbè, c'è il numero, come hai fatto? Ma come hai fatto avere il numero? Ma girava il numero. Vabbè, allora? Girava. Comunque niente. Che mestiere fai tu, scusa? Rappresentante. Il rappresentante, vabbè, allora? Sì, rappresentante. Agente di commercio. E niente, comunque, un po' dopo ho provato a richiamarlo con il numero sempre visibile, quindi mai con l'anonimo, sì, e si è iniziata una bellissima conversazione con il mio Fede. Più di una volta abbiamo chiamato, abbiamo parlato, abbiamo discorso di diversi argomenti, dei telegiornali, di Rete4, di Berlusconi, ma sempre in modo amichevole. Sì. E a un certo punto, sì, io l'avevo chiamato il giorno prima, e il giorno dopo mi vedo, voi immaginate, io ho un numero salvato sul cellulare, sì, no? Sì. Mi vedo una chiamata. Chiamati in arrivo Emilio Fede. Sì. Cioè, io mi sveglio la mattina, immaginatevi voi la scena. Mi sveglio, sì, mezz'ora dopo vedo la chiamata, Emilio Fede sta chiamando. Rispondo, ho detto, avrà sbagliato il numero. Sì. Rispondo e mi dice, tu adesso devi smetterla, io ti denuncio per minacce di morte, cose che assolutamente non è mai, cosa che non è assolutamente, sì, mai venuta. Sì, perché pensava che fossi tu quello che ogni tanto, sì, chiama e gli fa gli scherzi, capito? Sì, sì, ma chissà quante persone lo chiamano e gli fanno gli scherzi. Ma io, a parte la prima volta che l'ho chiamato spingendomi te, e lì. Ma perché mi vuoi raccontare questa cosa? Non ho capito. Perché perché sono molto preoccupato da questa cosa. Adesso io magari mi ricevo una denuncia e io mando la parcella Radio 24. Ma che parcella Radio 24? Prova a chiamarlo adesso. Digli, direttore, ciao, volevo dirti che ho letto che sei passato con Renzi, che vuoi votare Renzi. Però facciamo una prova. Adesso faccio squillare il numero, Sì, sì, pronto, sono Subash, com'è che ti presentavi, sì, con lui? Sì, sì, Subash Luigi, sì, mi ricordo. Ma che cazzo sei, indiano? Sì, sì, bravo. Sei indiano? Sequestriamo l'indiano subito, come diceva. Sequestriamolo subito, rapiamolo in cambio di Marò. Facciamo cambio con i Marò. No, allora, io non vi sopporto più, quindi io chiudo la telefono, perché mi fa semplicemente pena. Capito? Siete proprio noiosi, cretini, inutili nella vita. Se il vostro divertimento è telefonare a me, sta sconosciuto. Cosa? Direttore, ciao, sono Subash, ti ricordi di me? Cosa? Sono Subash Luigi, ti ricordi di me? Ci sentivamo, avevamo iniziato una bella conversazione, delle belle conversazioni, dei bei discorsi. Poi tu mi hai minacciato, mi hai detto che non volevi. Non vuole parlare. Beh, vabbè, ma bisogna provarci, bisogna provarci di continuo. Ci riproverò. Ciao, borsa. State ascoltando un programma offerto da G-Group, la prima multinazionale italiana del lavoro. Scopri i nostri servizi su ggroup.com. La Zanzara. Ma che meraviglia, io sono pazzo di voi due. Se fossi nata donna non saprei da chi farmi corteggiare e che avrei corteggiato. Allora, pensavate che fossero ormai stati licenziati oppure avessero cambiato lavoro quei funzionari che vogliono far cambiare i cognomi un po', come dire, un po' strani che esistono in Italia? Sì, sì. Beh, allora, c'è gente che si chiama Frocione. Frocione. No, Frocione. Giovanni Frocione, cioè uno può sopportare una cosa del genere. Un comune, una cittadina che vede un suo concittadino, che vede un suo abitante che si chiama Frocione, può sopportare una cosa del genere? Genera qualche problema forse. Dai, insomma, anche se tu ti chiami Frocione, diciamo la verità. David Frocione, conduttore televisivo e radiofonico. Non è bello, eh? No, indubbiamente. Non è bello. Forse non è bello. Qualche ilarità me la provocherebbe. No, ma non lascia perdere l'ilarità. Io fossi, mi chiamassi Frocione, mi vergognerei. Certo, mi arriva per caso, chissà da quale, come dire, da quale genia o da quale tradizione, sì. Però non è bello chiamarsi Frocione. Dunque ci sta che il funzionario di un comune cerchi di convincere uno che si chiama Frocione a cambiare cognome. La grande campagna: vi diamo i soldi se vi togliete quel cognome del cazzo che avete. Frocione? Sì? Sì, buonasera, chiamo dal comune. Prego. Allora, signor Frocione, sì. Il comune ritiene che certi cognomi vadano cambiati perché possono generare qualche imbarazzo. La chiamo, sì, per questo motivo. No, vabbè, io la ringrazio, comunque non mi fa niente. Ecco, mio figlio l'ha cambiato parecchi anni. Quindi non è più Frocione. Frangone Marco. Ah, ecco, ha cambiato in Francone, quindi sì. Togliendo. Sì, ma si può cambiare ma le diamo 1.000 euro, non le interessa neanche in questo caso. La ringrazio, non mi interessa. Pronto? Sì, buonasera, parlo col signor Frocione. Sì, il suo cognome rientra fra quelli che il comune vorrebbe venissero cambiati. Sembra assurdo, comunque io ho tutti i parenti al sud che hanno cambiato cognome. Uno so, ah, ma lo vede di... allora, lo vede che hanno cambiato allora, non è che sia certo, un'eresia. No, ma è al sud, poveracci, sono veramente oggetto di presa in giro. Allora, io ho fatto il militare a Chiasso, sul confine. Gli assicuro che ho avuto una marea di amici e nessuno ha badato al mio cognome. L'unico testa di rapa che mi dava praticamente le punizioni era un caporale di Napoli. Le sue offese mi entravano all'orecchio, mi dicevano all'altro. Cioè, mi perdoni, e cosa le diceva questo caporale? Mi diceva che io ero omosessuale, che a me mi piacevano gli uomini, che i miei avi erano sicuramente tutti finocchi. Abbreviazione chiaramente in Frocione, in Frocio. Io per me il mio cognome sono uno dei baluardi che rimane ancora. E quindi, come dire, Frocione padre, è Frocione resta, ecco. Sì, non... sì, sì. Pronto? Sì, signor Frocione. Buonasera, chi è? Sì, buonasera, io la chiamo dal comune. Il comune? La chiamo dal comune, signor Frocione. Comune che... Il comune ritiene che certi cognomi andrebbero cambiati perché generano imbarazzi e tra questi c'è pure il suo e la chiamo per questo motivo. Ma lei chi è, scusa? Io sono un funzionario del comune. Ho capito, ma il nome ho... Gallo. Io Gallo? Mi chiamo Gallo. Gallo? Senta, guardi, io sto lavorando, sono qua, le ho posto soltanto... io pure sto lavorando, questa è una macelleria, bello. No, bello lo dice casomai a sua nonna, a me non lo dice perché è bello. Io sto facendo il mio lavoro, lei si mette ad offendere, mi dice bello. Io l'ho offesa forse? No. No, scusa. E allora? Bravo. Ecco, e sarò pure bello. Noi stiamo facendo un lavoro, stiamo cambiando dei cognomi, va bene? Se lei non ha tempo, mi dice che non ha tempo e basta. Grazie, non mi interessa. Ragazzi, ma com'è possibile che quello là è orgoglioso di chiamarsi Frocione? Quello di Firenze è là, dai, su, ma non è possibile una cosa del genere. Enzo da Napoli, vai, Enzo. Buonasera. Sto intervenendo per rispondere un po' a... Sto intervenendo, quello lo sappiamo che lei sta intervenendo, lo sentiamo che lei sta intervenendo. Vabbè, comunque per contestare un po' quello che ha detto il napoletano concittadino Masi. De Masi. Allora, che vuole allora, contestare? Cioè, io lo dico, forse faccio parte di una razza rara per lui, perché io contesto le sue... osservazioni in modo civile, in modo perché pacifico. che ha detto Enzo? Ha detto che in pratica i napoletani hanno, cioè hanno un codice genetico di violenza, che Napoli è violenta, cioè Napoli è una città metropolitana, forse lui non lo sa, ha detto che è più violenta di altre città, perché quando uno dice certe cose viene minacciato di morte, questo ha detto. Ma non lo stesso viene a Milano, la minaccia di morte può succedere con qualsiasi persona che c'ha evidentemente che c'ha no del sì. cervello, la parte finale della porzione intestinale, ma può succedere in qualsiasi parte, i buoni e i cattivi stanno da tutte le parti. Non può permettersi di dire che a Napoli, diciamo, ha preso minacciato. È successo un napoletano, ma poteva succedere con qualche persona. Vabbè, allora, allora? Allora è questo, volevo contestare questa cosa. Non si può permettere, perché forse Napoli dà fastidio. Se Napoli adesso ha avuto un'esplosione, non lo so, perché se c'è un'esplosione di turisti e lui dice che non è vero questo, perché Napoli si sta arricchendo dal fatto della immondizia, sta uscendo una Napoli pulita. E se poi adesso infangata questa persona, non mi sembra giusto una trasmissione come la vostra. Molto di ma scusa. Nessuno infanga nessuno. Chiaro, infanga, perché a un certo punto infanga. Dice che i turisti non devono venire qua. Cioè, è una ricchezza che sta creando Napoli, che un po' ha non detto essere, se uno va a Napoli dai cinesi. Per cui stai tranquillo. Dà fastidio se Napoli diventa, diciamo, migliore o caccia la parte migliore di Napoli. Ma figuriamoci, cultura e bellezza. E allora questo mi fa schifo. Però scusi, diciamo, se il professor De Masi è stato minacciato per quello che ha detto, esatto, su Napoli. Ma può capitare. Le sembrano ma lui dice non è, se avessi fatto questa cosa su Milano non può dire che a Milano non può succedere. Può succedere che c'è una testa di rapa anche a Milano, non lo so. No, evidentemente dice De Masi, cioè, no. Purtroppo l'essere umano è variegato. A Napoli si dice al cervello è una sfoglia di cipolla, ma succede a Napoli, ma succede anche a Milano. No, non succedono le stesse cose. Cioè, funerali che si fanno con i fiorellini che si mettono all'elicottero, è successo in altra parte. Ma io non dico che i romani sono camorristi pure, sì, però amico mio, non si può dire questa roba qui, non è vero. Dire che Napoli è una città come le altre a livello di criminalità è ridicolo, è francamente ridicolo, è francamente ridicolo. Ma purtroppo, ma non per me, che io mi faccio mezzo guai in comune, mezzo cazzo, purtroppo si sta diffondendo in tutte le città, purtroppo, italiane. Va bene, grazie Roberto, ho capito, Roberto da Torino. Roberto, ciao Beppe, tanti auguri. Ciao, dimmi, grazie. È la seconda volta che chiamo, la seconda volta che sono sempre alla fine del programma. No, hai tempo, dimmi. Va bene, volevo solo dirti che noi viviamo nel paese delle contraddizioni, sì. Va bene? Perché io sono, come dice il tuo collega, un miserabile. Bene. Però non sono perché miserabile. Perché vai a puttane? Sì, no, io sono miserabile, però non sono miserabile, sono mezzo miserabile. Perché non vado con quelle sulla strada, giusto? Sì, vabbè, ma questa è l'idea un po' bislacca di Parenzo. Se uno va con quelle della strada, siccome secondo lui sono per forza sfruttate, sì. Guarda, che io ne conosco due o tre qui a Via Monterosa, Bravo. Che lavorano, almeno apparentemente, da quello che so, poi magari no. Ho capito, ma quello non possiamo saperlo di nessuno, a meno che non siamo investigatori, non lavoriamo nella polizia. Lavorano in proprio, cioè arrivano qua con la macchina, sono anche alcune giovani, altre arrivano qui con la loro macchinina. Quelli che sono lì davanti al Sole 24 allora, ore, ma alle Monterosa magari sarà così, ma insomma allora, ci sono, è pieno di studi, mica lo dico io, non è che me lo invento. Quelle che sono sulla strada non necessariamente sono schiavizzate, capito? Senti Parenzo, vabbè, Roberto, allora ascolta, non ho voglia di bisticciare, perché no, ma neanche io con te, guarda, non mi interessa, non ho voglia di litigare, avevo chiamato sì, per un'altra cosa. Neanche io con te. Comunque ti dico questo, io ho un caro amico che va spesso in Brasile, sì. No? Per far arrivare una amica dal Brasile deve fare un mucchio di richieste, perché una persona dal Brasile non può arrivare. Vabbè, e allora? Ecco, allora io dico, tutti questi, per carità, io non ho niente contro, questi travestiti trans brasiliani che ci sono, no? Sì. Ma chi li fa arrivare? Vabbè, ma quello che c'entra? Arrivano attraverso svariati canali, come dire. No, per dire a Parenzo. Arriveranno con un visto regolare, poi rimangono qui, eccetera. No, arrivano con visti, non fasulli. Ci sono persone che prendono soldi. Ma anche, certo, non c'è dubbio. Prendono, bravo. Ecco, ma allora, che vuoi dire? Che anche questi sono sfruttatissimi. Ma sicuro? Vabbè, anche loro in parte ci sono alcuni trans sfruttati, certo. Altri no. Vabbè, allora no, Roberto, dove vuoi arrivare? Quelli dal Sud America sono tutti sfruttati. Vabbè, ma dove vuoi arrivare con questo ragionamento? Non cambia la mia discorso, però. Ma no, voglio arrivare che allora perché non devo. Ma tu hai detto che sei un mezzo miserabile. Volevi dire un'altra cosa, in realtà. No, in realtà volevo dire un'altra cosa. Comunque, lasciamo stare. Adesso, che volevi dire? Non ho capito. No, volevo parlare di quel coglione di Renato Zero che oggi ha fatto tanto casino. Perché viviamo in un mondo, come ti dico, che non è regolare. Perché Renato Zero, è vero, io adoro Renato Zero. Sono un po'. Aspetta un attimo, sono un po' sorcino pure io. Cioè, andavo ai concerti di Renato Zero quando ero ragazzino, a Roma, con l'ascendino in mano, il carrozzone, eccetera, eccetera. Sì, assolutamente sì. Ma l'ho detto più volte, non è mica la prima volta che lo dico. No, con l'accendino in mano. Un po' come Travaglio, sì, con l'accendino in mano, qualche concerto di Renato Zero, sai quando mette quegli accendini in mano. Meraviglioso. Accanto il carrozzone. Ma stupendo. Ma va. Avanti da sé, eccetera, eccetera. Allora, Renato Zero è stato multato a Roma e sostanzialmente poi a un certo punto, durante un mezzo litigio con i vigili, ha detto: voi non sapete chi sono io, sostanzialmente. Ma la cosa più incredibile non è questo, che poi magari lui lo smentisce, eccetera, è quello che ha detto. Cioè praticamente lui abita nel centro storico di Roma, ha parcheggiato una Jeep intestata a una società che lui aveva in uso in una zona che è normalmente vietata alle auto, è andato a mangiare in un ristorante là vicino, è tornato e si è ritrovato una multa sul parabrezza e le ganasce. Si è un po' alterato coi vigili, ha chiamato una troupe televisiva e un fotoreporter e ha raccontato quanto segue: un certo autoritarismo impedisce ai romani di esercitare la propria cittadinanza con orgoglio e soddisfazione. Mentre le macchine blu si prendono ancora molti vantaggi, i romani come me devono sborsare 1500 euro all'anno per poter rientrare nella propria abitazione in centro. E molte, troppe volte non bastano neanche quelli. E poi francamente i soldi di queste penalizzazioni non vengono spesi per le manutenzioni e il decoro stradale e ambientale di questa Roma capitale. Basta con questi eccessi di zero, quando chi ha veramente ferito Roma, chi l'ha saccheggiata e umiliata, è ancora e inspiegabilmente in carica. Allora io dico una cosa, caro Renato Zero, va benissimo tutto, i politici rapaci, i politici inadempienti, i politici incapaci, i politici che non sono in grado di far funzionare la città, probabilmente pagare 1500 euro per chi sta in centro è troppo, va bene tutto, però amico mio, se tu hai messo la macchina male e ti hanno messo le ganasce, beh, paga, non filosofeggiare. E ancora, se io l'artista romano per eccellenza ottengo questo trattamento, pur essendo residente in centro, vi lascio immaginare cosa ha già subito o subirà un romano meno riconoscibile di me. Allora, o la multa è sbagliata e non si doveva fare, allora uno ricorre, fa casino, per carità, si incazza, ma se la multa c'è tutta, com'è ne inde filosofare? Saluti e baci, paga la multa e taci. Esatto. Arena, paga, no? Giusto, Roberto? Ma io dico, se tu abiti a Roma, tu lo sai meglio di me, da noi a Torino in ZTL ti fanno la multa, non ti mettono le ganasce. No, ma quello la ZTL non c'è, quello abita là, probabilmente ha parcheggiato in una zona dove non si poteva parcheggiare. Bravo, certo. E allora la paghi, stai zitto, non ho capito tutto sto casino perché lui era nato zero. Ma allora sì, perché Marino non amministra bene la città, perché che cazzo c'entra? Allora se uno deve dire... Che cazzo c'entra Marino? E ma... lui che non doveva fare quell'infrazione, cosa fa tanto casino, va a chiamare la troupe televisiva? Ma non ti vergogna? Ma dai su... Paolo da Cosenza, vai Vezzi. Paolo. Senti Giuseppe, buonasera. Dimmi. Ma il razzismo non è un reato. In che senso? No, scusa. Come no? Io certo che è un reato. È come mai sta Radio Padania? E me lo chiedo anch'io, guarda, bravo. No, ragazzi, no. Bravo, me lo chiedo anch'io, bravo. Allora, tu la chiuderesti per razzismo Radio Padania? Sì, ma assolutamente, ma scherzo. Sto parlando con Paolo, tu l'hai già detto. Anche lui, sicuro, è persona seria. Io la chiuderei subito. Ma quando mai? Assolutamente no. Assolutamente no, è un grande, fare, in alcuni momenti un grande sfogatoio popolare. No, ma scusate ragazzi, ma volete interrompere la rubrica Il peggio di Radio Padania? Sì, scusa. Certo. Ma io non voglio assolutamente, che cazzo me ne frega a me di Radio Padania, scusa, mica so Parenzo che fa questioni di principio. Ma perché non si è colpito direttamente? Ma non me ne frega un cazzo. Ma c'è gente Paolo, che viva Radio Padania, che esista sempre Radio Padania, così noi possiamo fare la rubrica Il peggio di Radio Padania, li possiamo pigliare per il culo, sino Barin, sino Pellegrin, che vivano per sempre, anzi che duri per i prossimi 120 anni Radio Padania, ma tutta la vita, ma stai scherzando? scherzando, vai. Comunque, prima di chiudere, vorrei dire una cosa. Dimmi. L'inno nazionale, l'inno dei 5 Stelle è orrendo. No, da, non è male, risentiamolo alla fine, risentiamolo, così rimandate. No. Da far impressionare anche Maria De Filippi. No, aspetta. Io l'ho apprezzata. Aspetta, fammi sentire. Lo facciamo solo noi. Dai, non è male, su. No, è buono, è buono. Di salire sopra il tetto. Di salire sopra il tetto lo fate solo voi, sì, l'abbiamo visto. Pretendere rispetto. Pretendere rispetto, sì, insomma, adesso. Da chi proprio non ce n'ha. Molto bene. Lo facciamo solo noi. Ma sembra che lo facciamo solo noi. Noi Italians do it better. Grillini do it better. Ragazzi, ci sentiamo domani 18:30. Ciao. Star sempre noi stessi. Per amore di onestà. Non mettete in bocca a un cittadino cose che non ha detto. Potreste pentirvene fra poco. Voi considerate che fra poco faremo chiudere il vostro programma, quindi anche questo tornerà a vostro svantaggio. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Amici miei, siamo al flop. Radio 24. La passione si sente.